Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Appartiene alla grande famiglia dei coronavirus, di cui fa parte anche quello della SARS, il nuovo virus che in Cina ha già contagiato più di un centinaio di persone e provocato al momento 3 decessi. A Obiettivo Salute facciamo il punto della situazione insieme alla professoressa Maria Rita Gismondo, direttore della microbiologia dell'ospedale Sacco, Università di Milano. Buongiorno a voi. Dalla Cina con preoccupazione, quanto è pericoloso il nuovo virus della polmonite scoperto in Cina e quanto è alto il rischio di trasmissione da uomo a uomo? Con preoccupazione che possa arrivare un'epidemia da questo virus, sì, ma moderatamente. Ci siamo abituati ormai a questo ricorrente fenomeno di nuovi virus che si svegliano, che saltano dall'animale all'uomo e che ci danno queste microepidemie con minaccia di pandemia. Certamente oggi, proprio da un punto di vista di periodo dell'anno, il rischio è molto più alto perché ci troviamo a ridosso del Capodanno cinese, che implica un grande movimento di popolazione dalla Cina verso gli altri paesi occidentali. E proprio in occasione degli spostamenti previsti per il Capodanno cinese, i maggiori aeroporti hanno attivato controlli. È una misura sufficiente, professoressa Gismondo? Dipende da che misura. Misurare la febbre all'arrivo dei passeggeri non è in questo caso certo, non ci dà la certezza di evitare il contagio. Uno, perché ancora conosciamo poco la storia del contagio del virus, quindi potrebbero arrivare soggetti assolutamente asintomatici ma infettivi. E due, perché sappiamo benissimo, la SARS ce l'ha insegnato, che molta gente che ha la febbre è sicura di avere un'influenza banale, prende una tachipirina prima di scendere dal volo e dopodiché è negativo al controllo della temperatura corporea. Quindi questi controlli, che sicuramente devono essere fatti, non sono una barriera al virus, sicuramente possono attenuare il rischio di diffusione. Professoressa Gismondo, arriviamo alle conclusioni. La preoccupazione direi che non fondata in questo momento, visto un numero così esiguo di dati, di infetti. Certezza che fra poco avremo tutti gli elementi per diagnosticare l'eventuale infezione in tempo brevissimo. Siamo attenti a qualsiasi caso arrivi con sintomatologia influenzale da quelle zone. In questo momento il rischio è legato solo per contatti che si hanno con soggetti che provengono dalla zona con questa microepidemia. Per il resto non c'è al momento nessun rischio. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto per una nuova diretta Facebook. Oggi parliamo di dieta e di ambiente. La programmazione di Radio 24 invece prosegue con Melloga. Vi aspetto e non mancate una buona giornata da Nicoletta.